sono le 10:30, so già che ho fatto tardi. Un'altra notte in giro, come dei bastardi. Mi scoppia la testa, ieri che cosa ho fatto? Sono quello che dice basta e poi ne prende un altro. Scusate signori, prendo e vado fuori. Prima colazione, via verso nuovi errori. Io che raccolgo tutto, ma che non prendo niente. Mentre cammino urlo dentro ma nessuno sente. Prego sì mi dica, quale direzione? Prima svolta a destra e dritto dopo quel portone. Scusi una domanda, mica un accendino? Mentre cammino sputo fumo che sembra un camino. E ripercorro quella strada ma ora verso casa. Mentre mi accorgo che è passata già mezza giornata. Corro in cucina e dentro il frigo cerco qualche avanzo. Del resto il tempo passa in fretta ed è già ora di pranzo. È già ora di pranzo. È già ora di pranzo. E ora cosa faccio? Accendo la televisione, solite persone. Ma all'improvviso un suono che ruba l'attenzione. Sì, sono ancora qua. Ok perfetto, ci vediamo tra mezz'ora al bar. Esco di fretta, in bocca una sigaretta. Il mio solito ritardo, la gente lì fuori aspetta. Ma oggi che si fa? Qualche novità? Solite domande, stessa quotidianità. E passiamo giorni interi quasi in latitanza. E se fosse proprio questa poi la vera essenza? Che se stiamo tutti insieme poi nulla ci manca. Siamo musica e questa è la nostra frequenza. La nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza. E passiamo giorni interi quasi in latitanza. E se fosse proprio questa poi la vera essenza. Che se stiamo tutti insieme poi nulla ci manca. Siamo musica e questa è la nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza. Siamo musica, siamo musica, siamo musica, la nostra frequenza.